Milano, 13 novembre 2009. 90 poliziotti in tenuta antisommossa e giubbotti antiproiettile traggono in arresto 5 studenti dell'onda milanese. L'accusa era pena aggravata. Il bottino, 400 fotocopie, sottratte dalla sede di Comunione e Liberazione, sita all'interno dell'università. Per portare a termine l'arresto, la NATO era stata avvertita, ma non c'era abbastanza spazio per far atterrare gli elicotteri. Boh, certo che questi rischiano davvero 10 anni di carcere, almeno, eh? Eh sì, la nuova riforma di giustizia non depenalizza reati gravi, quali l'appropriazione indebita delle fotocopie CL stilate. Noi siamo i giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf. Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf. Ma che cosa c'è? Ma che cosa c'è? Vale insieme a me. Vale insieme a me. Buonasera da Anna Adamolo e da Nona Almada, altro anagramma di Onda Anomala, uno per puntata. Eh sì, eh sì, abbiamo aperto questa puntata con questa notizia che dir poco, come potremmo definirla? Disarmante o assurda, come vuoi tu, guarda. Tu, sì, ma a parte disarmante, sconcertante e anche grave, cioè gravità almeno per due ordini di motivi. Cioè è sconcertante il livello di potere e di intimidazione che ha questa associazione, Comunione e Liberazione, che in Lombardia è anche ben rappresentata dal presidente della regione, ma è sconcertante anche il livello di asservimento delle forze dell'ordine. Cioè una... sono andati 90 per arrestare 5 che avevano fatto 400 fotocopie senza pagarle, cioè assurdo. Infatti, ma grave e assurdo è anche arrestare degli studenti per questo tipo di reato, inscenando poi una ritualità che non viene neanche riservata per i peggiori evasori. E poi colpisce inoltre la sproporzione del provvedimento giudiziario in relazione alla risibilità della questione in oggetto. Eh sì, però la vita a Milano è molto cara, eh. A parte questa è una battuta, però in realtà è davvero così. E poi sempre più mancano i servizi cui lo studente dovrebbe accedere in quanto reale. Eh sì, infatti, cioè uno quando va in altre università in Europa vede che magari gli studenti hanno gli trasporti pubblici gratis, qui da noi zero. Ma a parte i trasporti pubblici, uno studente secondo noi dovrebbe avere diritto alla possibilità di comprare libri, a libri universitari ovviamente, a fare fotocopie, a avere dispense in modo gratuito. Dovrebbe avere la possibilità di accedere ai luoghi di cultura in modo gratuito per poter vedere mostre, musei, senza parlare poi del servizio medico che qui a Perugia da quest'anno è stato molto ridotto. Pare che il medico degli studenti è diventato anche il medico degli immigrati o viceversa, non si capisce. Le mense dovrebbero essere gratuite per tutti, vabbè. Insomma, tutto ciò che costituisce, usando un solo concetto, il reddito indiretto. Ecco che hai toccato l'argomento chiave della puntata. Infatti oggi parliamo di reddito, inteso sia come reddito indiretto sia come reddito sociale o garantito. Eh sì, infatti stiamo per presentare il primo ospite. Un consiglio, cari ascoltatori: andate a mettere, vi do 5 secondi, andate a mettere un bel caffè sul fuoco, poi vi spieghiamo cosa serve. Finalmente questo Anna Adamolo tanto richiesto. Allora, salve a tutti, io sono Anna Adamolo, sono un laureando in filosofia e sono qui per parlare di un tema che ho scoperto recentemente, che ho approfondito quanto possibile, che sarebbe il reddito di esistenza. E diciamo, che cosa intendi per questo reddito di esistenza? Allora, per reddito di esistenza intendo una somma che è corrisposta dallo Stato a ciascun membro della società, ove per Stato si possa intendere qualsiasi istituzione politico-giuridica, come ad esempio può essere l'Unione Europea oppure lo Stato italiano o anche le singole entità regionali. Perché questa introduzione gioverebbe? Allora, questa introduzione può giovare per vari motivi. Intanto, diciamo che questo reddito, prima specifico, può variare per quantità, per età, per inclusione o esclusione di minori, ma anche delle caratteristiche invariabili, che sono quelli che è individuale ed universale. E permette per diciamo approcciarci almeno inizialmente, di staccare dal classico concetto che si è affermato dal capitalismo in poi. Sì, ragazzi, questo è arrivato il momento di andare a prendere questo famoso caffè che sta sul fuoco, perché qua si parla di capitalismo eccetera eccetera, anche con aggettivi vari, attenzione. Insomma, permette di staccare cosa che nel capitalismo non era possibile, il diciamo il fatto che venga corrisposto un reddito dal lavoro salariato, e lo trovo una cosa molto importante. Allora, per riassumere un attimo, riporto una citazione riportata in un articolo, scusate la pronuncia, di Bertomeu e Raventos. Il reddito di base è una somma monetaria pagata dallo Stato a ciascun membro a pieno diritto della società o residente, anche se non desidera lavorare in forma remunerativa, indipendentemente da quali possano essere le altre possibili fonti di reddito e senza che abbia importanza con chi lo conviva. Sì, dunque, prima di parlare nella seconda parte anche di a quali categorie questo reddito sociale, questo reddito di esistenza gioverebbe, occorre fare un attimo una precisazione. La regione Lazio ha approvato recentemente una legge regionale sul reddito, e in altre regioni, Umbria compresa, è in discussione una legge regionale ma di reddito sociale. Queste leggi però concepiscono il reddito come strumento di assistenza, soprattutto per gli indigenti. E infatti la regione mette a disposizione una certa quantità di soldi, pochi in realtà, tipo massimo per 1000 persone, pochissima gente, e poi ridistribuisce questi soldi in base ai bisogni. Tra l'altro bisogna dire che leggi simili riguardo il reddito sono presenti in tutta Europa, ma l'Italia, che non è mai stata in prima linea riguardo le forme di Stato sociale, è sempre in ultima posizione, e riguardo il reddito è in situazioni simili solamente alla Grecia e all'Ungheria. Eh sì, quindi in Italia non c'è nemmeno questo reddito sociale, ma il reddito di esistenza, di cui parliamo più approfonditamente nella seconda parte, in realtà costituirebbe una distribuzione delle ricchezze, come ha detto il nostro ospite prima, individuale e incondizionata, fatta a monte, quindi non una ridistribuzione. C'era una vecchia canzone un po' piccolo borghese che faceva: se potessi avere. Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte, amore, l'eredità d'un zio lontano, americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle. Il reddito di esistenza è 1000 lire al mese per tutti, indipendentemente da qualsiasi fattore. Ma se 1000 lire al mese hanno una diversa carica emancipativa a seconda di chi lo percepisce, no? Infatti, potremmo portare come esempi paradigmatici quattro situazioni. Quattro caffè, quattro situazioni, mi raccomando, ragazzi. Paradigmatici. Il caffè paradigmatico. E in effetti vediamo che oltre che individuale ed universale, il reddito di esistenza può essere definito anche formalmente laico, nel senso che permette diversi tipi di emancipazione. Partiamo ad esempio da una coppia omosessuale, dunque non riconosciuta formalmente e specialmente in Italia, dove riguardo questo tipo di culture siamo molto indietro a causa di impedimenti di vario genere, a causa, diciamo, della Binetti, diciamo, di quelli con lei, e anche di uno stato sito vicino Roma. Comunque parlando appunto dell'esempio della coppia omosessuale, vediamo che molti tipi di sussidi vengono corrisposti alle famiglie, magari alle famiglie con molti figli, lasciando appunto in difficoltà situazioni come quelle della coppia omosessuale oppure anche dei single, mentre il reddito di esistenza, essendo individuale ed universale, permetterebbe una reale emancipazione magari a coppie omosessuali che vivono in situazioni di indigenza. Sì, quindi il reddito porterebbe a un concetto diverso di nucleo familiare o nucleo di convivenza, diciamo. Esatto. Non, il nostro ospite non vuole usare la parola famiglia. Questo, esatto. E poi altro esempio, sentiamo la nostra Anna Damolo femmina, facciamo un bel esempio femminista, vai. Oppure potremmo prendere come esempio una donna che subisce violenza. In molti casi la violenza sulle donne ha luogo in famiglia e le donne sono... Famiglia qua è stato usato in senso negativo, eh? Ovviamente, sono vittime di questa violenza. Intanto spesso non hanno dei mezzi di sostentamento sufficienti ad uscire da questa situazione di violenza, ossia a lasciare questa situazione familiare difficile. Oppure, diciamo, non trovano degli enti che possano assistere o aiutarle in questa sua decisione. Perciò il fatto che sia corrisposto questo reddito a livello individuale potrebbe permettere una maggiore indipendenza, autonomia, e permettere ad esempio alla donna in oggetto di lasciare il suo nucleo e liberarsi da questa situazione di violenza e oppressione. E nel caso invece di un migrante cosa succede? Un migrante, prendiamo per esempio i migranti che, grazie anche alle leggi dell'ultimo governo, insomma, trovano molte difficoltà nel, diciamo, legalizzare la loro situazione. Sì, un attimo, faccio la precisazione, perché appunto qua si parla di reddito di esistenza, quindi in sostanza al reddito avrebbero diritto tutti coloro che, ad esempio, all'interno di una città, facciamo l'esempio di Perugia, tutti coloro che non sono residenti a Perugia, ma tutti coloro che vivono a Perugia, esatto, avrebbero diritto a questo reddito, quindi in particolare anche ai migranti che stanno lì solo per lavoro, anche se hanno cittadinanza di altri paesi. Esatto. Prendiamo i migranti che lavorano ad esempio nell'agricoltura e sono sottoposti a situazioni di vero e proprio caporalato. Questo reddito permetterebbe loro di emanciparsi, di non essere più ricattabili, magari di riuscire anche a pagare gli esosissimi costi della regolarizzazione e di non essere più oggetto dello sfruttamento da parte dei nuovi caporali. E come ultimo esempio potremmo parlare dello studente che vuole intraprendere la carriera universitaria e incappa nella spinosa questione dell'ISEU, ovvero... Sì. Il reddito tramite cui si calcola l'indicatore tramite cui si calcola il pagamento delle tasse che lo studente dovrà versare si basa su questo indicatore che riguarda l'intera famiglia. Mentre prendiamo per esempio uno studente la cui famiglia non gli voglia finanziare gli studi, come fa questo ragazzo a studiare? Non può studiare perché magari il suo indicatore ISEU è altissimo, ma lui sostanzialmente non ha i soldi per pagarlo, in quanto la sua famiglia non vuole che lui studi. e perciò una forma simile di reddito potrebbe aiutare questo studente in particolare, ma tutti gli studenti, a fare nuove esperienze, potrebbe incentivare la mobilità sociale e dunque ad accedere liberamente all'università. Sì, ringraziamo anche Nick Castle per averci proposto questa facciamo sempre questi riferimenti incrociati. No, è un ragazzo che spesso, cioè 10 mail su 11 inveisce contro persone, però questa undicesima mail ha proposto questa cosa molto interessante. E sì, in realtà il reddito di esistenza avrebbe un effetto dirompente anche nel mercato del lavoro. Facciamo una breve introduzione, allora, in cui parliamo del 73, questo... a partire dalla crisi energetica del 1973, in sostanza, molti studiosi hanno notato un effettivo cambiamento nel modo di produzione. Cioè la crisi energetica del 73 ha fatto capire, a partire dalla crisi energetica del 73 si è capito che il mito del progresso economico infinito, che era un po' alla base del modello di produzione della rinascita economica europea e statunitense negli anni 50 e 60, in realtà veniva meno. E se veniva meno il mito del progresso economico infinito, veniva meno anche la centralità del luogo in cui questo progresso economico veniva reso materiale, cioè la fabbrica. Quindi nel meccanismo di produzione la produzione diventava non necessariamente legata alla fabbrica, ma diventava importante, come la produzione materiale, anche la produzione cognitiva e materiale, che veniva in, cioè, e per fare produzione cognitiva e materiale non c'è bisogno di un luogo particolare. In tutti i luoghi noi produciamo, perché in sostanza pensiamo, o per meglio dire, perché tutto ciò che noi facciamo può essere preso da altri che ne possono ricavare dei dati. Questo, in, diciamo in parole abbastanza semplici, è quello che passa sotto il nome di produzione cognitiva immateriale, cioè non solo siamo noi a produrre qualcosa, ma sono anche gli altri a ricavare informazioni da ciò che noi produciamo, magari anche a nostra insaputa. Esatto, diciamo che anche in quanto consumatori produciamo qualcosa, esatto, potremmo dire. E inoltre una piccola parentesi riguardo quello che hai detto tu: non sono più immaginabili scene simili alla classe operaia va in paradiso, no? Con la catena, la fabbrica, oppure diciamo che esistono ma sono ridotte a marginalità. Questo mutamento dei modi di produzione però impone anche un modo nuovo, e qui scusate questo eccesso, questa violenza verbale, di reclamare. Ma non sarei mica un faccino roso, spero. No, no, assolutamente, assolutamente. Questa è la domanda, ma a quale sindacato fai parte? Degli ultimi degli uraniani, UDU. Sono sbarcato adesso sulla Terra e mi sono accorto di questa cosa. Comunque, stavo dicendo, non è più incisivo, o comunque non è più fondamentale e centrale lottare per il posto fisso o per l'aumento dei salari dentro la fabbrica, cosa comunque importante. Ricordiamo ad esempio la lotta degli operai della INSE, però non crediamo siano più delle lotte che possano sostanzialmente mutare la condizione. Sì, perché il posto fisso in realtà è in estinzione, cioè non è che il problema è che la lotta per il posto fisso non ha senso, la lotta per il posto fisso ha senso, ma purtroppo i nuovi contratti non prevedono il posto fisso, cioè saranno sempre meno coloro che avranno un posto fisso, quindi... Esatto, inoltre delle lotte che possono essere per un maggior salario o per questioni di fabbrica sarebbero comunque rivendicazioni particolaristiche, mentre in un'epoca dove la categoria interpretativa fondamentale è quella del precariato, una lotta veramente universale sarebbe quella per il reddito e dunque per una distribuzione nuova delle ricchezze. E per un nuovo welfare. C'era una vecchia canzone di un periodo in cui qualcuno alla mia destra qua non era ancora... no, era ancora piccolina, diciamo, che... Mi viene in mente questa vecchia canzone che magari ascoltiamo un po', va. Cinambrezza, mamma mia, c'è sta manifestazione. Non porta la polizia, volta a voi. Lo cordone, però porta la mia sabbia. E lo fello, con canzone da fai la mare. Ne vi è all'universitario. Non è sa facile, manifesto, si chia con le piazzetta. Salva me, la notte, con l'amice per appaia. Torni qua, la mattina, a casa tua, dove è cuca. Lo fai 3-4 ore, suonne e da mamma, si na lo una mappina devo mettere a studia, e mi faccio mazza tanto tutte le giorni a fatica, non pensiero, non sessione, ma che cosa santa fa? Passa, passa, passa, non posso chiudere. voglio salario garantito. Canzone. Basta, basta, basta, no pozzo più stanco, po' 7:40, mamma e papà, vivo quasi ricattato, ossessionato, mantenuto, parassita, ma sta storia da forni voglio salario garantita, oh salario garantita. Ah, ma si parlava del problema di prima, cioè il figlio napoletano che va all'università del nord e non ha un reddito né diretto né indiretto e non può essere indipendente dal nucleo familiare. Questo discorso è molto attuale in periodo di controriforma Gelmini. Dai, presentati, Anna Damolo. Ciao a tutti, sono Adamo Annalo, laureando in economia, la specialistica. Adamo Annalo. Certo che come anagramma di Onda Anomala, forse questo è il più brutto che abbiamo detto. Ascolta, spiegaci un po' che rapporto c'è tra il reddito, la precarietà e la controriforma Gelmini, siccome insomma sei intervenuto con questa cosa. Sì, la trasformazione nell'università e nella scuola sono direttamente legate alla trasformazione nel mercato del lavoro. E quindi le trasformazioni che vediamo con la Gelmini riguardano direttamente come è oggi il mercato del lavoro e come è oggi la precarietà. Infatti, secondo me, la visione che è da leggere nella Gelmini è proprio un tentativo di modificare il processo di mobilità sociale, cioè di come uno studente entra e può accedere nella società e nel mondo del lavoro. Sì, quindi in sostanza si va a incidere sul modo di formare lo studente, perché lo si forma in un, cioè, lo si ingloba direttamente nel mondo del lavoro già in partenza, in sostanza, a sua insaputa, poi immagino. Sì, perché oggi cambia proprio il significato di essere studente. Uno studente è già un lavoratore, perché già svolge tirocini gratuiti, stage gratuiti, e quindi partecipa direttamente al processo di produzione che, come abbiamo detto prima, è cambiato. Sì, però vuoi mettere che spostare mobili, fare fotocopie è molto più importante che studiare esami, eh? La nuova università prevede questo e noi dobbiamo... E noi che siamo a favore dell'introduzione della... No, forse no, eh? Certo, lo vediamo soprattutto in una città come Perugia. Il centro di Perugia vive di eventi culturali, e questi eventi culturali, sociali, tutto quello che ci pare, vive di una base fatta di studenti che lavorano o gratuitamente o sottopagati o attraverso tirocini e stage. E quindi partecipiamo direttamente alla produzione di valore, di profitto, attraverso la nostra cooperazione che in realtà non è riconosciuta. In effetti sono veramente tanti gli eventi, se uno ci pensa. A parte Euro Chocolate, ma Umbria Jazz, poi ci può essere anche Batik, comunque sia, e... Altro cioccolato. Altro cioccolato di Gubbio. Sono tutti eventi che oggi sono fondamentali per il territorio, per smuovere soldi, denaro e tutto, e che si avvalgono della cooperazione, che anche se non realizzano direttamente profitto, smuovono tutti quei soldi necessari per far avanti l'economia. E questo è un lavoro che viene fatto a tutti i livelli della formazione. Pensiamo a una persona che è precario nella ricerca a storia dell'arte o a facoltà di lettere e che contribuisce a lavorare a una mostra d'arte come può essere quella da Corot Picasso. Come perché hai citato proprio da Corot Picasso? Perché l'hai vista gratis? Sì, abbiamo avuto la fortuna di vederla gratis con una guida d'eccezione. Avete avuto anche la sfortuna di mettere in un giorno in cui non c'ero, vabbè, comunque. Ecco, questi sono dei esempi che ci fanno capire come oggi funziona la valorizzazione, qual è il ruolo dello studente, soprattutto in una fase in cui vediamo che i beni digitali e l'informatizzazione sono sempre più fondamentali per il capitalismo. Vedi l'open source, il peer-to-peer, dove sono le comunità che realizzano questi prodotti e non è né un'azienda pubblica né un'azienda privata. Stessa azienda pubblica e privata non hanno più senso in questa situazione. Per questo noi... Per questo io parlare di Gelmini, di lotta all'università, significa direttamente parlare di precarietà, parlare di mercato del lavoro, parlare di modalità di produzione. Eh sì, del resto se l'università è sempre più privatizzata, è sempre più aziendalizzata, è normale che il concetto di università, mercato del lavoro, tutto quanto si fonda. Ed è anche normale che per capire quali sono effettivamente le trasformazioni in atto uno dovrebbe meditarci un po' su e... pensarci un po', perché le trasformazioni in atto che ci vedono come soggetti passivi spesse volte sono davvero difficili da capire, anche se in realtà si basano su dei principi molto semplici, cioè sul fatto che altri si appropriano del lavoro cognitivo immateriale fatto da persone che vanno all'università come studenti o precari. Vabbè, quindi comunque sia, ancora una volta una puntata senza nominare la ministra non si può proprio fare, siamo proprio dei facinorosi degli anni 70, sepolti, no, l'altra volta eravamo sepolti dalla storia, ora usiamo degli slogan vecchi, ammuffiti. C'è uno che vuole fare uno slogan vecchio, aspetta, vai, il nostro primo ospite. E che non contribuiscono a far progredire la scuola e l'università. È vero, mentre la stragrande maggioranza della professionalità, questo, vabbè, comunque. Vabbè, diciamo, comunque, so che comunque a breve, in settimana, c'è un appuntamento abbastanza importante, una data anche nazionale. Ci vuoi spiegare? Sì, è un'assemblea nazionale all'Università della Sapienza a Roma. Il 20 novembre alle ore 14 è stata convocata dai precari della ricerca della Sapienza, però hanno invitato a questa assemblea anche gli studenti a livello nazionale e i precari della scuola. E quindi si farà una discussione proprio sulla riforma Gelmini e soprattutto sulle prossime date di mobilitazione e che tipo di mobilitazione si può fare, naturalmente discutendo non solo della specifica legge, ma come abbiamo detto di tutto quello che coinvolge questa trasformazione. Eh sì, e noi come Onda Perugina ci saremo, porteremo anche la nostra esperienza di collaborazione tra università e scuola, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, e va a dire, vabbè, poi vi racconteremo forse la settimana prossima. Abbiamo anche in programma di andare a fare visita agli operai dell'Eutelia che stanno occupando la fabbrica all'interno di una lotta comunque salariale, diciamo. Va bene, ringraziamo i nostri ospiti. Grazie. Facciamo a voi. Ciao a tutti. La nostra genovese Belin, vabbè, va. Con chi ci tocca lavorare, va, porca miseria. Tanti saluti e ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico. Ti prego. Lasciami andare. Fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola. Sono Anna Adana.